preparato spaghetti? No, ho preparato fusilli. Ma ti sei impazzito per caso? No, ho un pezzo di dentro al naso. Dai, hai fatto tonno e piselli? Sì, ne ho fatto più di tretti. Ma li metti lì dentro al vaso? Sì, ho un pezzo di dentro al naso. Sì, dentro al